cielo come una promessa vedrai. La stella del destino, stella degli eroi, con il tuo cuore puro e l'aiuto di Anna e Dio May, oltre te stesso riuscirai a diventare Shaman King, Shaman King, il nuovo re degli sciamani, Shaman King, il grande sogno che hai dentro di te. Sarà l'amore a dirti quando sbaglierai, con il potere del tuo spirito a difenderti così, Shaman King. Lotta dura, guarda quanti amici che hai, e tu sei osatura, non scordarlo mai. E se la vita è un'orchidea che può scaldarti il cuore, lascia che sia tua per diventare Shaman King, Shaman King, il grande re degli sciamani, Shaman King, e questo è il sogno che hai dentro di te. Sarà l'istinto e la follia di un samurai, o l'innocenza che hai nell'anima a difenderti così, Shaman King. È un'occasione da non perdere, c'è più tempo, devi crescere, dimostrare anche a lei il vero coraggio che hai, per non tradire a metà. Basta crederci così, Shaman King, Shaman King, Shaman King. Shake it, shake it, Shin Chan. Shake it, shake it, Shin Chan. Shake it, shake it, Shin Chan. Shake your body, Shin Chan. Shake it, shake it, Shin Chan. Shake it, shake it, Shin Chan. Shake it, shake it, Shin Chan. Rock your body, Shin Chan. Non passi inosservato neanche un attimo, Shin Chan. Nel tuo mondo colorato non c'è il solito tran tran. Tra una smorfia e una pernacchia il tuo stile va di più. E anche scuola è uguale a pacchia quando lo decidi tu. E sei fatto a modo tuo, ma per te non è un problema. Come on, shake it, shake it, Shin Chan. Ogni momento è già mozza piatante qua. Fantasticoso, ma tu sei con le manette al vento. Ti senti sempre al top, non metti mai lo stop. Fermarti non si può. Come on, shake it, shake it, Shin Chan. Se viaggi in massa, your body, Shin Chan. Shake it, shake it, Shin Chan. Shake it, shake it, Shin Chan. Shake it, shake it, Shin Chan. Rock your body, Shin Chan. Usi il termine trastullo anche se non sai cos'è. Per far rima con citrullo, questo è quel che piace a te. Tu sei re della tua scena e sei fatto a modo tuo, ma per te non è un problema. Come on, shake it, shake it, Shin Chan. Ogni momento your body Shin-chan. Liquido vitale, siamo fatti così, muscoli scappati. tanti, sempre scalpitanti, siamo proprio fatti così. Questo nostro corpo è meglio di un computer, vedrai. Siamo fatti così. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Who lives in a pineapple under the sea? SpongeBob SquarePants! Absorbent and yellow and porous is he? SpongeBob SquarePants! If nautical nonsense be something you wish? SpongeBob SquarePants! Then drop on the deck and flop like a fish! SpongeBob SquarePants! Ready? SpongeBob SquarePants! SpongeBob SquarePants! Wanna learn how to tie your shoe? It's a very easy thing to do. Just sit on down and it'll give you the scoop. What's that? It's called the loop-de-loop. You gotta take a lace in each hand. You go over and under again. You make a loop-de-loop and pull, and your shoes are looking cool. You go over and back, left to right, loop-de-loop, and you pull them tight like bunny ears or a Christmas bow. Lace them up and you're ready to go. You make a loop-de-loop and pull, and your shoes are looking cool. That burns down the whole town. Use for uranium bombs. N is for no survivors. When you... Plankton, those things aren't what fun is all about. Now, do it like this. F is for friends who do stuff. Never. That's completely idiotic. Here, let me help you. F is for friends who do stuff together. U is for you and me. Try it! N is for anywhere and anytime at all. Down here in the deep blue sea. Wait, I don't understand this. I feel all tingly inside. Should we stop? No, that's how you're supposed to feel. Well, I like it. Let's do it again! Okay! F is for frolic through all the flowers. U is for ukulele. N is for nose picking, sharing gum and sun licking here with my best buddy. SpongeBob's Scaredy Pants! All right, boils and ghouls, you ready? Yeah! Well, who lives near a graveyard under the sea? SpongeBob's Scaredy Pants! Absorbent and yellow and spooky as he? SpongeBob's Scaredy Pants! If nautical chills be something you wish? SpongeBob's Scaredy Pants! Then scream your gills off and flop like a fish! Pineapple under the sea. SpongeBob SquarePants. Absorbent and yellow and porous is he. SpongeBob SquarePants. If nautical nonsense be something you wish. SpongeBob SquarePants. Then drop on the deck and flop like a fish. SpongeBob SquarePants. Ready? SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants. Ha ha ha ha. Yeah. Zsa-zsa, bazsola, bam! Thank you. reazione scatenata come te. Dottor Dottor, Dottor Dottor Slime, che cosa inventerai? Tu sei lo scienziato più simpatico, ma non vinci mai e fai solo guai. Sei sempre affaccendato, un po' fanatico. Dottor Dottor Slime, che cosa inventerai? Tu sei lo scienziato più incredibile e ciò che non c'è te lo fai da te, come arare mitiche esperienze. Escape.